Dolina. In un mare di pietra, laggiù, resta una dolina, dove un uomo lavora la terra fra i colori dell'aurora. Dopo tanto cammino, di prima mattina, è un riposo anche vedere il tenue verde di questa tazzina. All'orizzonte sorge la casetta. Il camino a destra vapora e con l'occhio di vetro brilla l'unica finestra. Mentre l'uomo ara quel poco di terra, il cielo vicino s'apre e si rischiara. In un mare di pietre laggiù resta una dolina.